Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo martedì 8 ottobre. Naturalmente la mossa di Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria, lasciando solo il PKK all'indavanti l'invasione della Turchia di Erdogan, ci dimostra ancora la qualità terrificante della politica estera-americana ed imperialista, per usare termini antichi ma non certo desueti. Comunque ne parleremo nella rassegna stampa. Per il momento Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Venezuela, dobe per le sanzioni, costretta a bloccare gli account. Ecuador in strada contro l'austerità. Emirati, sigilla accordo, tolto il divieto di viaggiare in Libano. Siria, gli Stati Uniti abbandonano gli alleati curdi e poi ci ripensano e la Turchia lancia l'offensiva. L'UNHCR chiede il ritorno dei soccorsi in mare e infine in Cambogia pronti a schierare l'esercito se tornano i leader di opposizione. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Ecuador, dove i manifestanti indigeni hanno paralizzato le strade nel quinto giorno di manifestazioni anti-austerità. La misura per eliminare i sussidi per il carburante ha provocato tra i più gravi disordini degli ultimi anni, 477 gli arrestati. La società di software Adobe ha deciso di tagliare i suoi account in Venezuela tra le ultime ripercussioni delle sanzioni finanziarie statunitense nei confronti del presidente Maduro. La società californiana lunedì ha citato misure radicali da parte dell'amministrazione Trump. Il 5 agosto avevano annunciato il divieto delle aziende agli individui di fare affari con il governo socialista di Maduro. Adobe è nota soprattutto per i suoi software grafici e multimediali, tra cui Adobe Acrobat, Photoshop e Adobe Flash, che consentono i siti web online. Il suo taglio segue la mossa della Major League Baseball per bandire i suoi giocatori dalla Winter League venezuelana a causa delle sanzioni. Stati Uniti, un secondo impiegato dell'intelligence anonimo si è fatto avanti ed è stato intervistato dall'ispettore generale, ha detto l'avvocato Mark Zaid, che rappresenta il whistleblower nell'Ukraine Gate. Il presidente Trump ha sostenuto, a proposito di una telefonata in cui avrebbe spinto il presidente ucraino Zelensky a indagare su Biden, che è stato totalmente impreciso, ma Zaid afferma che il nuovo informatore ha una conoscenza diretta di alcune delle accuse contenute in questa denuncia, che gli osservatori affermano che probabilmente rafforzerà gli sforzi di impeachment alla Camera. Come ha reagito Trump? Il suo avvocato personale Rudy Giuliani ha twittato che non significa niente, fa parte di una campagna orchestrata dal Partito Democratico. Camerun è stato liberato, il 65enne leader dell'opposizione Maurice Kamto. Con lui sono stati rilasciati altri 100 membri del suo partito, il Cameroon Renaissance Movement, concessione fatta dal presidente Paul Biya sotto forti pressioni internazionali per la sua dura repressione nei confronti dei partiti contrari al governo. Kamto è stato processato a settembre insieme a decine di altri per insurrezione, ostilità verso la patria, reati punibili con la pena di morte. Il leader del partito MRC aveva rivendicato la vittoria delle elezioni presidenziali l'anno scorso. I dati ufficiali gli avevano dato il 14% dei voti contro Biya, da 37 anni il potere, con 71% dei voti. Il Ruanda sta interrogando alcuni sospetti nel tentativo di stabilire perché i militanti hanno organizzato un raro attacco nella regione montuosa settentrionale, nota per il gorilla trekking, una delle principali attrazioni turistiche della regione. Almeno 14 persone sono state uccise nell'attacco di venerdì nel distretto di Musanze, a circa 93 km a nord-ovest della capitale, Kigali. 19 degli aggressori sono stati uccisi e 5 arrestati, secondo la polizia. I militanti sono membri delle Forces for Liberation of Rwanda, o FDLR, un gruppo ribelle che fa base nella vicina Repubblica Democratica del Congo, ha spiegato la polizia. Stai ascoltando Radio Bullets. Gli Emirati Arabi Uniti hanno revocato il divieto di viaggiare in Libano. Non lo si poteva fare dal 2016, mentre il governo di Beirut cerca l'aiuto degli Emirati Arabi per far uscire l'economia fortemente indebitata dalla sua crisi profonda. Il primo ministro libanese Saad Hariri, alla guida di una delegazione ad Abu Dhabi, ha cercato sostegno, ha detto alla Reuters, e sperava che gli Emirati Arabi avrebbero immesso denaro nella sua banca centrale. Prima di annunciare la revoca del divieto di viaggio, Hariri ha dichiarato di essere ottimista dopo aver visitato gli Emirati e aver incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Iraq, non si placano le manifestazioni che scuotono il paese. Il bilancio dei morti è salito a oltre 109, 6.000 feriti a Baghdad e in diverse città del sud dell'Iraq durante le proteste di piazza contro la disoccupazione e la corruzione. Le manifestazioni sono iniziate alla fine di settembre dopo il declassamento di un amato generale che ha combattuto per sconfiggere l'ISIS, e i sostenitori affermano che è stato espulso per aver resistito alle milizie appoggiate dall'Iran. Il governo ha represso le proteste con il coprifuoco, censura e violenza, facendo arrabbiare ancora di più le proteste giovanili. Il presidente Barham Salih, dopo che le forze di sicurezza hanno detto di non aver aperto il fuoco con i manifestanti, ha confermato ieri che i militari hanno usato una forza eccessiva al di fuori delle regole di ingaggio contro i manifestanti. Intanto la polizia sta rimpiazzando l'esercito in alcuni quartieri chiave della capitale. Le truppe americane che lavoravano a fianco dei combattenti curdi in Siria hanno a lungo impedito ad Ankara di attaccare i curdi che avevano contribuito a sconfiggere l'ISIS. La Casa Bianca ha affermato che le forze statunitensi non saranno più nelle immediate vicinanze quando la Turchia, che considera i militanti dello YPG terroristi e che hanno aiutato i separatisti curdi all'interno dei suoi confini, si muoveranno contro di loro. La decisione è arrivata dopo una chiamata tra presidente Trump e il presidente turco Erdogan. Poi, accusato di aver abbandonato se non tradito i curdi, Trump ha fatto un passo indietro e twittato: come ho detto in passato, se la Turchia fa qualcosa che io considero off limits, distruggerò o annienterò l'economia della Turchia, l'ho già fatto in precedenza. Gli Stati Uniti hanno fatto molto di più di quanto ci si potesse attendere, inclusa la cattura del 100% del califfato dell'ISIS, e ora che altri nell'area, alcuni molto ricchi, proteggano il loro territorio, ha aggiunto Trump. E poi ancora, Trump ha smesso di parlare di ritiro, ma solo di un dispiegamento diverso di 50-100 soldati. Qual è l'obiettivo della Turchia? Vuole una zona cuscinetto oltre il confine con la Siria, in cui combattere elementi terroristici mentre reinsedia i rifugiati siriani nella loro patria. Intanto, durante la notte, i turchi hanno cominciato la loro offensiva lanciando un bombardamento contro la base curda nella provincia di Asakeh, secondo il canale di Al-Kibariya. Egitto, il presidente El-Sisi parla di cospirazione straniera mentre aumenta la pressione su di lui perché si dimetta. Nel pieno della repressione delle proteste antigovernative, il presidente ha incolpato i social media e la diffusione di notizie false di aver cercato di destare sospetti su di lui e distruggere la fiducia del popolo nelle istituzioni nazionali. Sisi accusa estranei di cercare di rappresentare l'Egitto come nemico e di aver spinto per un cambio di regime. Libia, i cavalli sono morti mentre i bambini sono rimasti feriti quando un bombardamento aereo ha colpito un centro equestre vicino alla capitale. Khalifa Haftar, il leader della Cirenaica, sta intensificando gli attacchi aerei in una Libia impantanata nel caos e nella violenza ormai dal 2011, quando è stato ucciso il dittatore Gheddafi. Tunisia, risultati preliminari ufficiali delle elezioni legislative verranno annunciati mercoledì 9 ottobre, lo ha dichiarato il presidente della Commissione Superiore Indipendente per le elezioni, Nabil Buffun, annunciando che la ripartizione dei seggi verrà resa nota in seguito, poiché le operazioni di calcolo richiedono molto tempo. 217 seggi, 199 eletti dai residenti in Tunisia, 18 dai tunisini all'estero. Gli exit poll hanno dato in testa al partito islamico Ennahda, seguito a breve distanza dal partito del magnate in galera Nabil Karoui di Kalb Tunes, al cuore della Tunisia. Il tasso di partecipazione alle urne delle elezioni legislative tunisine di due giorni fa è stato del 41,32% in Tunisia e del 16,5% all'estero. Alle ultime legislative del 2014 il tasso di affluenza finale era stato del 69%. Mediterraneo, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha chiesto un ritorno dei soccorsi in mare per frenare la morte dei migranti e dei profughi che tentano di raggiungere l'Europa. Accolgo con favore le recenti decisioni di quattro Stati membri dell'Unione Europea di istituire un meccanismo di cooperazione temporanea per sbarcare i soccorsi nel Mediterraneo e spero che ciò galvanizzi un impegno più ampio dell'Unione Europea, rilancerà il salvataggio in mare. Ma questo deve corrispondere anche a un'ambizione più ampia, investimenti per affrontare le cause profonde dei flussi di rifugiati e sostenere gli sforzi dei paesi di accoglienza e di transito dei rifugiati, ha affermato. Grandi ha anche colto l'occasione per salutare il Ruanda e il Niger per aver accettato di ospitare i rifugiati bloccati in Libia a seguito di attraversamenti del mare. I due paesi hanno fornito strutture di detenzione e di transito sicure in cui i migranti possono essere ospitati in attesa del rimpatrio nei loro paesi o in paesi terzi. Il Kosovo vira sinistra. Il successo del voto anticipato dei due maggiori partiti di opposizione sembra destinato a scalzare dal potere gli ex leader della guerriglia indipendentista UCK, che da posizioni radicali e fortemente antiserbe hanno guidato il paese dalla proclamazione di indipendenza da Belgrado nel 2008. Un nuovo governo potrebbe abolire i dazi doganali antiserbi imposti un anno fa e consentire la ripresa del dialogo con Belgrado, unica strada per arrivare a un accordo sulla normalizzazione dei rapporti e alla soluzione di un conflitto che continua a destabilizzare la regione. L'ora è arrivata, ha detto Albin Kurti, 44 anni, leader di Autodeterminazione, partito di sinistra nazionalista, che ha ottenuto il 25% dei consensi, seguito dalla Lega Democratica del Kosovo, moderati di centrosinistra con oltre il 24%. Italia. Il neo ministro degli esteri Di Maio ha promesso un cambio di atteggiamento e di superare lo stallo con l'Egitto nel caso dell'omicidio di Giulio Regeni, lo ha detto ai genitori del ricercatore ucciso durante un incontro alla Farnesina. Olanda, una relatrice delle Nazioni Unite nel Consiglio dei diritti umani, ha criticato il recente divieto olandese di impedire di indossare il velo integrale, dicendo che provoca più danni che benefici. Tendai Ayukme ha detto che l'esiguo numero di donne che indossano il velo islamico integrale che copre il viso provoca più molestie da quando la legge è entrata in vigore il 1 agosto. Mentre la legge vieta tutti i tipi di indumenti che coprono il viso sui trasporti pubblici, negli edifici governativi, nelle istituzioni sanitarie ed educative, Ayukme afferma che il discorso politico che lo circonda fa sì che le donne musulmane diventino obiettivi di violenza. È aggiunto, questa legge non ha posto in una società che si vanta di promuovere l'uguaglianza di genere. Afghanistan, i talebani hanno annunciato che numerosi loro affiliati sono stati liberati dalle carceri afghane, comprese ex governatori ombra, pochi giorni dopo l'incontro tra un inviato americano e i principali leader talebani nella capitale pakistana. L'incontro è avvenuto in seguito alla sospensione dei colloqui tra gli Stati Uniti e i talebani il mese scorso. I talebani hanno anche affermato di aver rilasciato a loro volta 3 ingegneri indiani sequestrati in cambio di 11 comandanti talebani. Il primo ministro della Cambogia ha minacciato di schierare i militari se i leader e i sostenitori del principale partito di opposizione sciolto tornassero dall'esilio il mese prossimo in quello che considererebbero un tentativo di colpo di Stato. Almeno 30 attivisti all'opposizione sono stati arrestati quest'anno e accusati di complottare per rovesciare il governo prima del previsto ritorno dall'autoesilio di Sam Rainsy, fondatore del partito di salvataggio nazionale della Cambogia CNRP, sciolto il 9 novembre. Cina, un video trasmesso dalla CNN citando fonti dell'intelligence, una ripresa fatta con un drone nello Xinjiang mostra centinaia di uomini in fila in divisa da carcerati che scendono da un treno con una benda sugli occhi e le mani legate dietro la schiena. Lo mostra un video ripreso da un drone nella regione. Tratterebbe di uiguri musulmani cinesi sui giubbotti viola e arancioni le parole Kashgar Detention Center stampate sopra. Si vedono gli uomini scendere da un treno, poi seduti a terra in quello che sembra un grande cortile fuori dalla stazione. Le loro teste sono rasate, le mani legate dietro la schiena. Tutti indossano una benda nera sugli occhi e sono sorvegliati da dozzine di agenti di polizia in uniforme SWAT. E a questo riguardo, l'amministrazione Trump ha inserito 28 entità cinesi, sia governative che commerciali, nella sua lista nera, accusandole di essere implicate nelle violazioni dei diritti umani delle minoranze musulmane. E concludiamo con Hong Kong, prime ritorsioni giuridiche verso chi ha violato il bando delle mascherine. Accusate le prime due persone per aver violato il divieto enormemente impopolare approvato dalla governatrice Lam con i poteri di emergenza dell'era coloniale. Un centinaio di persone ha manifestato in solidarietà fuori dalla corte. E da parte nostra anche oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Sono Barbara Schiavulli e questa è Radio Bullets. Finest time. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno carissimi radioascoltatori, è cominciata la nuova stagione ed è ufficialmente entrato nel palinsesto di Radio Città Fujiko 103.1 FM il Pinsimonio, rubrica di divulgazione culturale che vi propone 5 parole prese direttamente dal vocabolario Treccani e che vi terrà compagnia il martedì, mercoledì e giovedì alle 9 in punto, poco prima della rassegna stampa. E cominciamo quest'oggi con un pinsimonio leggero che parte proprio dalla parola pinsimonio, che come è noto è un condimento di olio, sale e pepe in cui si intingono per mangiarli gli ortaggi crudi. Come il pinsimonio si usa per insaporire e per dare gusto agli ortaggi altrimenti insipidi, noi lo usiamo per condire il nostro linguaggio e dargli un po' di sapore, andando a riscoprire le parole e le loro sfumature, che come certe spezie che teniamo nella credenza e non usiamo mai, meritano di essere riscoperte per condire piatti succulenti. E dato che il nostro è un pinsimonio non alimentare ma radiofonico, va redatto, per cui andiamo a vedere che cos'è una redazione. La redazione è innanzitutto l'azione o il fatto di redigere un testo scritto. Con uso più specifico è riferito ad attività lessicografiche, giornalistiche o pubblicistiche. O è altrimenti il complesso del personale che ha il compito di redigere le voci di opere lessicografiche o enciclopediche, gli articoli e i servizi di quotidiani e periodici o di pubblicazioni varie. Per estensione la redazione è anche l'ufficio stesso come complesso di mezzi e strutture e la sua sede. E redazione è un termine che deriva non da redare, come a volte erroneamente si suppone, ma da redigere, che deriva dal latino redigere, che significava propriamente ricondurre. E in senso generico redigere significa stendere, compilare o stilare, redigere un documento, più particolarmente scrivere o curare in qualità di redattore, redigere un articolo di fondo. Da qui andiamo a vedere il termine da cui deriva redigere, che è ricondurre, che significa condurre di nuovo, far tornare al luogo di partenza o comunque al luogo in cui qualcuno o qualcosa già si trovava o dal quale o da cui si era allontanato. È interessante così notare come nel termine stesso redigere si nasconda e si esprima il lavoro della redazione, che è quindi quello del ritorno all'origine, del ritorno alle fonti a cui è necessario tornare per verificare le informazioni e le notizie che permettono poi ai redattori di redare gli articoli. E a proposito di articoli, tra poco ne avremo una rassegna. Andiamo quindi a vedere rassegna, che come primo significato è una rivista militare, ossia sottoporre a rapido esame i soldati schierati, le loro armi e il materiale che hanno in consegna allo scopo di controllarne il numero, l'ordine e l'efficienza, o per estensione anche il controllo di altre categorie di persone. Altrimenti rassegna è l'enumerazione, un elenco accompagnato da osservazioni e giudizi, o un esame minuzioso e particolareggiato. O infine, rassegna è anche mostra, esposizione intesa a documentare la produzione di un determinato settore, come una rassegna di moda. La rassegna stampa di Radio Zanardi è quindi un esame minuzioso e particolareggiato dei vari quotidiani, accompagnato da osservazioni e giudizi, a cui ho il piacere di introdurvi. Noi ci risentiamo domani e io vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Città Fujiko. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Treccani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. dittatore. Niente solo, anche se orecchia, e scombina un po' il nervo. E la noce, torna a te, viva, viva Zapata. E viva, viva Zapata. Carre! Segna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Nove e trenta minuti in punto di questo 8 ottobre, martedì. E come puntualmente succede, c'è il tradimento della causa curda. Ormai è una costante fin dalla prima guerra, per essere solo nella storia recente, dell'Iraq, prima subillati dall'allora Bush e poi abbandonati il loro destino nelle mani di Saddam Hussein. Nella seconda guerra del Golfo, ancora una volta subillati, questa volta dal figlio di Bush, e ancora una volta lasciati poi nelle mani delle potenze vincenti. Quindi utilizzati recentemente nella guerra siriana dagli americani per combattere l'ISIS e per cercare di rimanere nella zona geopolitica, e adesso ancora una volta abbandonati. Quindi carne da macello, almeno questo nelle intenzioni della Casa Bianca e dei vari potentati della zona. I curdi, ahimè, hanno ben pochi amici, nonostante che sia stato un esempio nella una zona tribale, fascista, integralista, di esempi di grande civiltà, con l'esperienza di Rojava, per esempio, multietnica, multireligiosa, liberale, con le donne in prima fila. Insomma, proprio forse per questi meriti sono sentiti da tutti come un nemico potenziale potente, perché a rischio di contagione di democrazia nella zona, e ce ne sarebbe un gran bisogno. Ma insomma, oggi le cronache parlano una lingua diversa. Il Corriere della Sera, l'assalto di Erdogan ai curdi. Trump lascia la Siria, via da guerre ridicole. E questa affermazione, anche questa fascista, qualunquista, dice: ma lasci che si ammazzino tra di loro, sono delle bestie, però quando c'è il petrolio invece sono cause di democrazia e libertà, per interventi con i vari F-35, di cui parleremo. Turchia pronta all'invasione. Allarme dell'Unione Europea, prepariamoci al peggio, anche perché tutto il mondo ha da perderci, evidentemente, sia perché ritornerà potente la minaccia jihadista, sia perché ci sarà un ennesimo esodo di persone in fuga dalla guerra con tutto quello che consegue, magari bastonando poi i migranti quando bussano alle nostre porte, sia perché tra l'altro rischia di accendere, anzi, butta benzina sul fuoco di una Santa Barbara già bollente, incandescente, vedi la guerra dello Yemen. Quindi, che potrebbe allargarsi all'Iran, all'Arabia Saudita, Israele, di nuovo alla Siria. Insomma, Trump fa un passo indietro, dice Lorenzo Cremonesi e Giuseppe Sarcina. Erdogan ne fa uno in avanti. Il presidente degli USA ha annunciato il progressivo abbandono delle truppe statunitensi dalla Siria. E il presidente turco è pronto all'invasione, cacciando le forze curde. Naturalmente, per Erdogan c'è la cosa peggiore di un curdo, è un curdo di sinistra. Quindi il PKK, che è appunto democratico, antifascista, è fumo negli occhi a Erdogan. Ma la pagina di contropiano nell'analisi di Nick Browns, contropiano, ricordo, giornale online comunista, dà anche delle osservazioni così da interessanti da aggiungere. Chi è Nick Brown? Innanzitutto il generale, il comando generale delle forze armate siriane, di quelle democratiche, Federazione della Siria del Nord, che fa anche un quadro delle difficoltà politiche di Erdogan. Tra le altre cose, è una questione anche interna oltre che internazionale di petrolio, perché leggo tra le altre annotazioni: per Erdogan, ammaccato tra l'altro dalle elezioni amministrative perse a Istanbul e ad Ankara, si tratta anche di obiettivi di politica interna, per l'appunto. Di fronte allo scenario della crisi economica, in parte della popolazione turca, è fortemente cresciuto il malumore nei confronti dei profughi siriani. Una guerra contro i curdi spezzerebbe di nuovo l'avvicinamento dell'opposizione costituita dal CHP kemalista e l'HPD di sinistra, radicato in particolare tra i curdi, che si è prodotto a partire dalle elezioni di Istanbul. Questo è il calcolo di Erdogan, perché solo lo scorso fine settimana, spiega ancora Brown, in occasione della conferenza sulla Siria, il CHP, cioè i kemalisti, caratterizzato dalla sua fissazione sullo Stato, aveva segnalato la sua approvazione rispetto a un'operazione militare oltre confine contro i terroristi, così li chiamano i curdi. Un insediamento di profughi in Siria del nord, tuttavia, richiederebbe un accordo col governo di Damasco, e questo è il CHP. Insomma, di fatto l'ostilità contro i curdi potrebbe togliere l'isolamento a Erdogan nella politica interna. Ovviamente questo si aggiunge a tutta la vicenda della geopolitica di questo asse Putin, Turchia, Iran, da Putin all'ISIS le forze in campo, dice il Corriere, la via d'uscita dalla guerra nelle mani del terzetto Turchia, Russia, Iran, perché chiaramente gli americani tolgono le tende e si affidano le loro sorti all'aggressività di Israele e dell'Arabia Saudita. Questo è con due grandi incognite: profughi e prigionieri. Questo è il tema. Quindi la rabbia dei curdi ovviamente non si fa attendere, pugnalati alle spalle, i portavoci del Rojava, siamo pronti a combattere, perché i curdi una cosa l'hanno imparato nella loro storia, difendersi, questo non c'è dubbio, anche quando sono abbandonati da tutti. Se la Turchia invade il nord-est sarà il caos e l'ISIS riprenderà forza, una minaccia per tutti. Questa è la pagina del Corriere della Sera. Sì, ricordiamo anche in quella regione, nuovamente buongiorno, tra l'altro, e dell'importanza delle donne per quanto riguarda la difesa di una società tra l'incudine e il martello, ma che ha sempre voluto, fortemente voluto, principi progressisti. Forse anche questo dà fastidio in regioni dove è più importante il dominio territoriale, le dittature, la violenza e il petrolio. E così Siria, titola il Manifesto. La Turchia è pronta a invadere il nord della Siria con il via libera di Trump, attenzione, che ritira le sue truppe verso la cacciata dei curdi che hanno combattuto l'ISIS, che prima era formata da utili idioti violenti che facevano il gioco delle grandi potenze, e poi dopo, una volta combattuta, una volta la situazione passata, lasciano chi ha fatto resistenza completamente in balia di, come dicevo in precedenza, di incudini e martelli violentissimi. Il presidente degli Stati Uniti, pensate, ha anche il coraggio di dire Erdogan: ehi, però non esagerare, cioè bastonali, però non farti vedere troppo che li bastoni. No, da Unione Europea e dell'ONU, che dovrebbe invece intervenire, non semplicemente dire no. A Conte gioca con gli F-35 a Reykjavik in Islanda, ma lo vedremo più tardi. Questo è il Manifesto, che racchiude anche nella prima pagina un'altra argomentazione importante. Cosa va a scatenare poi tutto ciò? Va a scatenare una migrazione dettata dalla paura, dall'incertezza, a sua volta da percorsi insicuri, taglieggiati e cruenti, che risultano sempre più in aumento per quanto riguarda i morti nel Mediterraneo. Questo è il Manifesto nei suoi titoli principali. Nell'approfondimento, pugnalata di Trump ai curdi, Erdogan ora fretta di attaccare. Donald Trump: la Turchia avvierà presto la sua operazione a lungo pianificata. Le forze armate degli Stati Uniti non sosterranno o saranno coinvolte nell'operazione. Soprattutto basta guerre stupide da parte di Trump e degli Stati Uniti d'America, come se innanzitutto esistessero delle guerre intelligenti, uno, e secondo, come se non fossero mai stati impegnati in guerre stupide, no? E quindi le condanne bipartisan. Sanders, per quanto riguarda l'opposizione negli Stati Uniti d'America, dice: tutto ciò è irresponsabile. E Warren: ci serve una una strategia, non un presidente che cambia idea per una telefonata, e quant'altro, un esperimento di democrazia radicale diretta che va oltre lo Stato-Nazione. Arriva anche Mosca, che è presente certamente in questo scacchiere. L'integrità è territoriale del paese, il punto di partenza per trovare una soluzione al conflitto. L'annuncio dell'invasione chiude la conferenza su confederalismo democratico e municipalismo. E poi il modello Kurdistan: se volete la pace, non lasciateci soli. I punti fondamentali che già abbiamo citato, sia io che Alfredo: ecologia, parità di genere e internazionalismo. Potete ben capire queste tre parole come risultano agli occhi di Trump, di Erdogan e dei potenti del mondo, un po' come fumo negli occhi. Così permetteranno all'ISIS di riorganizzarsi per commettere crimini contro l'umanità, costringendo milioni di persone a fuggire. E qui torno al discorso di prima. Le donne sono da sempre le maggiori vittime dei conflitti. Sapevamo che se volevamo difenderci dovevamo essere noi a farlo. Parla Dabor Yomaisa, la comandante del YPG. Andiamo su altre testate che sempre parlano di tutto ciò frettolosamente. A pagina 4 il Carlino: Trump molla i curdi, via le truppe degli Stati Uniti d'America, Erdogan è già pronto a invadere la Siria. Come ho detto, il Carlino lo riporta con un breve occhiello in prima pagina e lo mette a pagina 4 con una cronologia degli eventi, se mai si riescono a fare. Ieri primo raid di Ankara nel nord della Siria, l'ira del Pentagono, minata la lotta all'ISIS, che poi però vede bene di lasciare così in balia di una situazione ancora cruenta una regione già di per sé travagliata. La stampa cita gli F-35 che pattugliano in Islanda e i confini aerei della NATO, utilissimi. Trump ritira le truppe, offensiva di Erdogan contro i curdi in Siria. Questo è il quotidiano torinese in ampio spazio per quanto riguarda la cronaca estera. E poi si parla di Erdogan in questo caso, e quindi diamo spazio a pagina 10, il piano del sultano del Bosforo per annettere i territori al confine. L'obiettivo è trasformare la regione in un'altra Cipro del nord. Sapete bene, uno dei pochi muri, uno dei pochi, sono sempre troppi, però un muro che è presente già da tempo è quello nell'isola di Cipro, dove vi è la parte turca e la parte greca. La Repubblica, e concludo: curdi traditi da Trump, Turchia pronta all'invasione. Lucio Carracciolo dice: ma l'Europa non è senza colpe. Accidenti, non è senza colpe, e come, anche dalle conseguenze che poi vediamo per questi poveri disperati che dal terrore, dalla paura si buttano in viaggi della morte, che vedono sempre più in aumento vittime. Intanto operazione turca nel nord del paese, il presidente degli Stati Uniti, via da guerre ridicole, di quello che penso a proposito di questa affermazione l'ho già detto in precedenza, ma il Pentagono è contrario all'offensiva di Ankara. Sì, allora qual è il progetto del sultano? Lo ha reso noto lui stesso, Erdogan, ovvero sì, avanzare di 30 chilometri, cioè rubare alla Siria un territorio, invadere, costruire 140 villaggi, il modello è quello israeliano con i coloni ebraici, trasferire 2 milioni di rifugiati, e costo di questa operazione, a cui si aggiungono quelli della guerra, 26,4 miliardi di dollari. Questa è l'operazione fatta sulla pelle della gente. Allora, francamente, se noi mettiamo in fila le operazioni della Casa Bianca e di Trump, da quelle economiche contro l'Europa e contro il mondo, ma contro l'Europa in particolare, i dazi che ci impone l'embargo alla Russia danneggiando la nostra economia, con le politiche internazionali vedi in Medio Oriente, beh, a questo punto ci domandiamo perché dobbiamo essere alleati agli Stati Uniti d'America, francamente, se non con una risposta che è la più convincente, altrimenti ci bombardano. Questa è l'unica cosa che potrebbe essere in qualche modo, è perché dobbiamo far volare via F-35? Ecco, è un'altra domanda che francamente con la difesa non c'entra un accidente. Quello che invece c'entra, come racconta anche il Fatto Quotidiano, gli eroi anti-ISIS, USA traditori, non potete lasciarci così. Il tradimento è più bello farlo, ma ti rifiuti di subirlo, a meno che tu non sia d'accordo con me, che l'unico modo che prova che esisti è quando tradisci, è quando tradisci l'uomo dentro di te. Ti alzi la mattina e vai allo specchio e cerchi un volto da guardare e da sputare. Normale. Non ti fai ti rifiuti di subirlo. L'unico modo che prova che esiste è quando tradisci, quando tradisci l'uomo dentro di te. Chi sei? Quando ti alzi una mattina esci di casa, ti siedi in macchina e potresti vomitare. Ma ormai sei tutto uno che fuma la polvere, che ti impregnano vestiti dalle maniche al colletto. Parli sempre di rispetto, se di rispetto non ti sei servito mai. E perché poi ti metti sempre dentro il letto, se nel tuo letto non ci vai a dormire mai. Sei fantastico, sì, sei fantastico. Dico mio, sai dove andrò, vorrei portarmi per il corpo. Già che ti ovunque andrò diranno che testa di cazzo che sei. Le giornalisti, il tradimento, non so come si vedrà Trump quando la mattina si alza e guarda allo specchio. Spero per lui che non lo vedo come lo vedo io, comunque. Veniamo invece all'avvenire. Lutto e più luce. Naufragio al largo di Lampedusa, annegano 13 ragazzi e 16 dispersi. E guardando a questo punto i dispersi, la possibilità di trovarli ancora in vita, giusto perché la speranza è l'ultima a morire, ma non c'è molta, di molta speranza. E poi l'avvenire torna giustamente sul suo scoop, che ha tolto il velo all'ipocrisia non solo del centrodestra ma anche del centrosinistra, perché nel 2017 c'era il governo Minniti, fa gli accordi con la Libia, quando appunto questo EGA, questo trafficante di uomini, capo delle milizie, ancora capo della costiera, di una guardia costiera libica oggi, fu convocato in questo incontro con i 007 per decidere i lager in Libia. Poi partì la campagna contro l'ONG e si aprirono appunto questi centri di detenzione nella costa africana. Questa fu una strategia abbastanza evidente e quindi oggi l'ONU dice no, noi non c'entriamo, non portammo noi questo personaggio in Europa. Furono Fulvi Minale, la loro ministra degli interni. Questo poi naturalmente corroborato da quelli che l'hanno seguito. Ma c'è un fatto eccezionale. Improvvisamente il giornale è pezzo e cuore con i migranti. Note che c'è Conte e già loro sia il governo e lui il giornale usa anche i migranti. Allora, strage di porti aperti, naturalmente questo drammatico ennesimo naufragio, donne e bimbi annegati a Lampedusa, non c'entra nulla che porti aperti e non porti chiusi, perché non sono quelle navi che stazionano dai porti chiusi, sono i barchini che arrivano tranquillamente con i porti chiusi, tranquillamente si fa per dire. Però il giornale dice più barconi partono più morti ci sono. Effettivamente se partissero delle navi ci sarebbero meno morti, ma questo non è un argomento che il giornale non vuole neanche prendere in considerazione. Questo è quello che arriva dal giornale. Altro atteggiamento invece è quello del Fatto Quotidiano, 5 Stelle, che liquida notizia con un trafiletto. Perché ormai è sempre, come direbbe Di Battista, è sempre la stessa cosa, una noia. Donne e bambini morti e affogati in Lampedusa sono un trafiletto di 30 righine, piccole piccole. Ne dà più spazio il Corriere, che già dalla prima fotonotizia, dalla prima, con la classica immagine di una donna terrorizzata, ricoperta qui in quelle carte di amianto, cioè, penso di no, ma insomma, che tengono termiche. Lampedusa, la strage delle donne, 13 vittime, 8 bimbi dispersi, un barchino si ribalta e si miglia dalla costa, a bordo nessun salvagente, caccia allo scafista. Naturalmente la caccia allo scafista, come dire, è la consolazione per i lettori, perché anche quando l'hai trovato, i morti rimangono morti e gli scafisti, morto uno scafista o anche stato uno scafista se ne fa un altro, quindi non è certo quello il problema. Adesso i soccorsi e lacrime, ero con mia sorella e la sua piccola di 8 mesi, vi supplico trovatela. I superstiti, naturalmente, dico io, sono sotto shock. Il sindaco, qui l'ideologia non serve. L'imbarcazione era partita dalla Tunisia dopo aver raccolto alcuni migranti in Libia. E naturalmente c'è un vertice tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea. e siamo alle solite. Tu parlavi dell'Europa che fallisce sul Medio Oriente, non è diverso anche nel fronte interno. Redistribuire i migranti, anche i paesi volonterosi adesso sono più cauti, dice Francesca Basso. Posso dire una cosa? Questa polemica Europa sì, Europa no, è una polemica del piffero. Perché sarebbe come chiedere al sottoscritto: in Italia vuoi il Parlamento o non vuoi il Parlamento? O il governo? Certo che lo voglio, ma questo governo è fetente. Vabbè, libertà di critica ci mancherebbe. A pagina 2, invece, tornando alla realtà e non alle domande che sicuramente non ci verranno mai poste, la prima pagina e soprattutto la fotografia vede un soccorso con le coperte termiche, le quali trovano sempre spazio purtroppo nelle prime pagine, dico purtroppo perché è il primo motivo per salvare dall'ipotermia questi disperati. Il naufragio: una donna viene soccorsa in porto dopo la tragedia, 13 le vittime, 8 bimbi tra i dispersi, poche le speranze di trovarli vivi, come già precisava Alfredo. Strage di donne e bambini davanti a Lampedusa, barchino si ribalta, 13 donne morte, la strage diventa infinita, i numeri aumentano e questo purtroppo riporta racconti di casi particolari, ma le tragedie sono tantissime. Nelle bare senza nome anche una 12enne, il dramma di Selima che ha perso la sorella e la nipotina di 8 mesi, il PM, erano tutti senza salva gente, ma come si dice, si chiamano viaggi non della speranza ma della disperazione e della morte, perché ormai questa è la grave realtà. Il resto del Carlino eppur si muore, il governo è cambiato, i porti sono aperti, anche il resto del Carlino si allinea al giornale poi, ma la sofferenza continua e poi riporta i dati, lo mette a pagina 5 nell'approfondimento, la replica di Franceschini: porti aperti o chiusi, si valuta caso per caso, ma non lasciamoli in mare, sarebbe anche ora. 6 anni fa persero la vita 368 persone, ricordate l'inizio di ottobre del 2013, a poche miglia dal porto di Lampedusa una nave naufraga e provoca la morte accertata di 368 persone. Si tratta di una delle più gravi catastrofe marittime nel Mediterraneo, i superstiti salvati sono 155, di cui 41 minori. Insomma, la situazione riporta un altro caso e dalle pagine dei quotidiani si sentono i dati, si sentono i numeri, le affermazioni che arrivano nel migliore delle volte. Dobbiamo muoverci, basta morti nel Mediterraneo. Purtroppo però i risultati li continuiamo a leggere con numeri in aumento. Le migrazioni ci sono ancora, accadono queste tragedie, è la prova che dal 93 oggi nulla è cambiato. Si collega esattamente a quello che ho detto Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa: non è possibile dire chiudiamo i porti o fare i blocchi navali, così continuiamo soltanto a contare i morti. La strage delle donne e dei bambini morti in mare davanti ai soccorritori, la barca salpata già in un mare in burrasca dalla Tunisia in una situazione tremenda. Questo appunto a evitare, criticando il giornale, giustamente, come diceva Alfredo, non ci fossero barchini ma ci fossero navi e ci fosse la possibilità di un condotto e di un canale nel Mediterraneo che può assicurare l'arrivo di e l'accoglienza di queste persone, certamente sarebbe diverso. Nel mare in burrasca, il giornale dice, bisogna evitare le partenze, no? Perché lontano dagli occhi, lontano dal cuore, meglio che siano torturati e uccisi là, no? Piuttosto che nel mare in burrasca davanti alla Lampedusa, i soccorritori cercano ormai solo cadaveri, almeno 15, più della metà bambini di 3, 4, 5 anni. All'appello mancano, quando se li troveranno aumenterà anche ufficialmente il terribile bilancio dell'ennesimo naufragio di migranti che ieri sera contava 13 vittime recuperate, tutti giovani donne, una incinta, una ragazzina di 12 anni, ma anche 22 persone che si sono salvate, tra loro la sorella della donna scomparsa con la figlia neonata, tutte sotto shock, come raccontano i soccorritori. Veniamo all'Italia, perché oggi probabilmente si consumerà un taglio della democrazia. quello che viene chiamato invece il taglio dei parlamentari. Giubila la notizia, giornale Filo 5 Stelle. Oggi taglio dei parlamentari, la vecchia politica lo prometteva da 40 anni e sono riusciti solo i 5 Stelle. Complimenti chi li ha seguiti, perché naturalmente non è che si tagliano i stipendi di quelli che sono in Parlamento, che sono ingrossati paurosamente negli anni, nei corsi dei decenni. No, si tagliano i parlamentari, quindi si taglia la rappresentanza popolare e si impedisce soprattutto che una lista di partito che va alle elezioni possa essersi qualche outsider non voluto dalle segreterie centrali, dalla famosa casta della politica. Dopo, chi dice facciamo un gesto di coraggio sacrifica i peones, lui rimane parlamentare, anzi controlla meglio il partito ed è più difficile rinnovare i partiti all'interno, e quindi si allontana la famosa casta dal popolo. Questo è il risultato di questo costo della politica. Questo. Complimenti. Devo dire che poi i 5 Stelle, onestamente, diamogli atto, sono sempre stati a favore di questa cosa. Altri invece seguono per opportunismo, il PD, evidentemente, che era contrario. La Lega esce dall'aula perché voterebbe a favore, però insomma non vuole fare un piacere al governo. Fratelli d'Italia invece rimane dentro perché lei correntemente tira un governo presidenzialista, quindi ci mancherebbe. E il giornale, il Parlamento è pronto a rimpicciolirsi. Italia Viva, Renzi, che deve votare a favore, ma però fare la bella gigogia ancora una volta, no? Mettersi in vista perché deve erodere un po' il PD, e trarre qualcuno da Forza Italia, magari anche la Polverini da Fratelli d'Italia, da Forza Italia, scusate. I leghisti disertano i lavori durante il dibattito, contraria soltanto più Europa dell'Emo Bonino. Gliene diamo atto che è una forza in questo senso coerente. Camere ristrette, che cosa cambierà? Doppio il via libera al testo in clinicante del referendum, ma questa volta peserà sulla tenuta della coalizione e sulle prossime elezioni. Anche qua si era chiesto da parte degli alleati di 5 Stelle delle pesi contromisure per bilanciare questa riduzione di rappresentanza parlamentare. Lo faremo, come, quando e in che modo non lo sa nessuno. Quindi questo è il risultato, poi, che molti prevedono sulla legislatura, che ora i peona spingeranno per arrivare a marzo 2023, visto che è sempre più difficile entrare in Parlamento, e allora molti prevedono che si allungherà la legislatura. La legge elettorale proporzionale per bilanciare premi e soglia sono un rebus, perché chiaramente anche sui premi di maggioranza, o alias la soglia per entrare in Parlamento, ognuna forza politica le ritaglia sui propri sondaggi del giorno. Cioè, con un grande senso dello Stato, lasciamo perdere. Comunque, da Montecitorio il Fatto Quotidiano. Aula vuota, ma le riforme giallorosse salgono a 6. Ma vai, taglio di parlamentari. Oggi il sì definitivo, ieri il dibattito a Montecitorio con pochi onorevoli. Tra l'altro sono quelle cose che si fanno alla chitichella, con poca gente in aula, tanto epocale e storico il voto. Previsti altri interventi sulla legge elettorale e anche sulla carta costituzionale. Le correzioni, infatti, ricorda anche Wanda Mar, ancora nessun patto sul sistema di voto. Quindi che bilanciamento hanno concordato? La sfiducia costruttiva e il Senato nazionale. Questa è la nuova retorica del bispensiero. Sì, certo, è l'argomento di politica interna che tiene banco sulle prime pagine dei quotidiani da noi selezionati. Il taglio dei parlamentari è fronda contro Di Maio verso la scissione nei 5 Stelle. Conte intanto dichiara: Renzi è un alleato come gli altri. In politica non sopporto i prepotenti. Oggi voto decisivo, la Lega potrebbe lasciare l'aula, la riforma è in bilico. Oggi il voto decisivo sul taglio dei parlamentari, fronda contro Di Maio e 5 Stelle verso la scissione, e la Lega, come avete letto, insomma, ha questa possibilità, se così si può chiamare. Il manifesto lo riporta a pagina 6, a pagina 7, e giustamente il capitolo è le camerette. Arriva il taglio dei parlamentari con le promesse di correzione, oggi il voto finale della riforma col sì delle destre, intesa tra capigruppo di maggioranza, l'impegno per una legge elettorale a dicembre che rispetti le sentenze della Consulta. Le immagini, il tavolo del capogruppo di maggioranza riunitosi nella sala della Camera dei Deputati, è qui riportato dal manifesto, la tentazione di chiamare ugualmente i cittadini alla referendum confermativo per prendere altro tempo. Nel documento politico torna il voto data certa per i provvedimenti del governo. La Boschi intanto già si smarca. Strano. Stefano Ceccanti del PD vota sì. Noi siamo sempre per la riduzione. Sui principi non cederemo ai 5 Stelle. Finché ambedue le Camere votano la fiducia è giusto renderle identiche per base elettorale ed elettorato. Il doppio turno di coalizione non è stato dichiarato incostituzionale. Passiamo invece a Riccardo Maggi legge di più Europa che vota no, una resa all'antiparlamentismo, il lavoro nelle Camere sarà più difficile. Lui stesso dichiara: sono stato relatore di minoranza nel primo passaggio, non ho cambiato idea, i correttivi in alcuni casi sono toppe peggiori del buco e comunque sono solo promesse. Intanto la propaganda, altro che un miliardo di risparmi, a conti fatti poi sono 70 milioni l'anno, riporta l'articolo a pagina 6, molto interessante, del Manifesto. Un miliardo di risparmi, dice adesso il Movimento 5 Stelle, sul blog fa anche l'elenco delle cose che si possono fare con i soldi risparmiati dagli stipendi dei parlamentari: ambulanze, scuole, come si trattasse di risorse immediatamente disponibili. Invece un miliardo è il conto che i grillini fanno avendo deciso che il taglio comporterà un risparmio che sarà poi di 100 milioni, che per una legislatura 5 anni fanno 500 milioni e per due legislature di conseguenza. Dunque la cifra enorme che viene propagandata sarà raggiunta a tutto concedere dopo 10 anni dall'entrata in vigore della riforma, vale a dire nel 2033. Le ambulanze devono aspettare. Scusate il sorriso, ma era molto amaro per tutto ciò. Insomma, anche il resto del Carlino, per quanto riguarda questo argomento, il taglio dei parlamentari, l'opposizione potrebbe sfilarsi, patto di maggioranza sulle riforme, patto sul proporzionale, obiettivo estendere il voto ai diciottenni anche al Senato. Già si parlava anche di un'altra realtà, di addirittura abbassare ai 16, ma con l'aria che tira direi che non è neanche una cattiva idea. Sarebbe più importante, secondo me, riuscire a divulgare e dare una sensibilità e una responsabilità politica ancor prima di decidere per l'età. Quella sarebbe già una grande cosa. Regionali, risico delle candidature nel centrodestra, l'Emilia alla Lega, divago ma è un'argomentazione più vicina a noi. Il vertice a 3 di domenica ha sciolto un nodo cruciale: la Borgonzoni è candidata, la Toscana è ancora in bilico. E allora, grandi risparmi dunque, leggiamo dei risparmi che non si possono fare, gli F-35, perché sui cieli d'Islanda, in questo caso, che andrebbe la mannoia, sugli F-35 non arretriamo, è una battaglia identitaria, non una battaglia di concretezza oltre che di immagine. Armamenti, Gianluca Ferrara, capogruppo di 5 Stelle in Commissione Esteri al Senato: possiamo risparmiare 20 miliardi e pagare scuole e ospedali. Vedi che ci potrebbe essere un altro modo di pagare scuole e ospedali. Nessun imbarazzo a contraddire Conte, affido che farà quanto detto, la rimodulazione degli acquisti. Ma non c'è solo gli F-35. Per esempio, parliamo delle Olimpiadi invernali. Qualcuno ricorderà della serie Viene avanti Pinocchio, che dicevano: le facciamo tra Milano e Cortina senza soldi pubblici, senza soldi dello Stato. Adesso puntualmente Milano Cortina, ora il governo pensa di metterci soldi, quindi alla fine paga Pantalone, cioè i lavoratori. Questo e allora si parla di almeno 400 milioni. Così, e sai che qualcosa si può fare in 400 milioni, qualcosa di asili, qualcosa di si può fare. Ma questo è quanto. Veniamo invece alla pagina politica. Dicevi Conte, che viene braccato, secondo il giornale, Conte braccato su spie ed F-35, F-35 l'ho già letti. Adesso è il problema del rapporto tra gli 007 americani e quello che ha evocato Renzi, e viene fagocitato dalla destra per cercare di minare il governo. In retroscena di Massimo Franco, che ogni giorno dicono: fai un tema libero, faccio in retroscena. Oggi dal Corriere dice: Conte il caso 007, io sempre lineare, sono più duro di Craxi e Sigonella, perché diamo omaggio a Craxi. Craxi fu l'unico presidente del Consiglio in Italia che disse no agli americani, quando volevano portare via i dirottatori dell'Achille Lauro con uno sbarco di Marine Sicilia, disse no, questi sono in Italia, processiamo noi. E infatti Craxi è saltato subito dopo. Comunque, e sui due Matteo, Salvini e Renzi, non sopporto i prepotenti. La delega, il premier rivendica un comportamento lineare, ribadisce che non molla la delega. Questo è quanto riguarda Conte. Per quanto riguarda invece questa linea giallo-rossa, Umbria, PD e 5 Stelle, storica prima volta dei simboli insieme alle urne tra 20 giorni. Questa alleanza non è che sia sintomo di gran benessere, perché il PD in Umbria esce da uno scandalo rovinoso, i 5 Stelle escono da dati regionali altrettanto rovinosi. Insomma, non so se metteranno insieme la ricchezza o la miseria, spero mettano insieme la ricchezza, perché altrimenti anche l'Umbria andrebbe in mano a Salvini e alla Meloni. Commissario del leader Dem a Perugia con il manifesto ufficiale di Bianconi, aspirante governatore civico, compreso un aspirante governatore civico di quelli che potrebbe stare in qualsiasi lista peraltro, ma questo è un altro dei problemi della tristezza dei tempi che viviamo. Sì, tra l'altro già stamattina ho fatto una figuraccia con l'acronimo SSN che non ho interpretato nell'immediato con Servizio di Sanità Nazionale, però non vorrei farne un altro a proposito della geografia, o meglio del risico in questo caso. Sì, perché nella base NATO decollano gli F-35 per difendere i cieli dell'Islanda. Ma a me, non so, non mi sembra che in questo momento l'Islanda abbia un aspetto sia strategico. Non so, comunque l'aeronautica italiana schiera i gioielli, ma non sono quelli che non riuscivano nemmeno a avere le funzioni primarie per il volo. I caccia di quinta generazione pattugliano per la prima volta i confini dell'alleanza. Il comandante Spreafico, una sfida vinta per il paese e le forze armate. Sono 90 i superjet che l'Italia comprerà entro il 2035, 11 già operativi, 28 quelli in arrivo. Direttamente da Reykjavik: se in Italia ci si attarda in discussione, in Islanda gli F-35 già ci sono e operano al meglio delle loro capacità. È un dibattito davvero paradossale visto dalla base Keflavik, che da alcuni giorni ospita un distaccamento della nostra aeronautica a difesa dello spazio aereo islandese. Questi sono soldoni, questa qui bisogna poi mantenerla, una base là, bisogna acquistare gli F-35, ma si sa, siamo provincia dell'impero e taglieggiati fra l'altro per quanto riguarda anche queste situazioni. E questo cosa fa? Aumenta il mercato delle armi, aumenta questo maxi spesa per quanto riguarda la difesa dei cieli di Islanda. La gente li vede alzarsi in volo in coppie temibili e filanti, sembra un manifesto futurista questo, e se ne parla sui giornali locali. Sono una piccola attrazione che cattura l'attenzione di chi è qui per visitare i geyser. E sicuramente sono osservati dai russi, scomodi dirimpettai che per la prima volta potrebbero incrociare un F-35 operativo, e chissà, magari hanno tutto l'interesse a testarne le capacità. Putin se la sta facendo addosso, insomma, da quello che stiamo leggendo dalla stampa. In realtà la situazione è un'altra, come ho detto, dietro ci sono ben altre cose, ben altre situazioni, probabilmente che vanno dal commercio, delle armi e tutto quello che ne consegue, e anche la devozione agli Stati Uniti d'America. Ma torniamo, visto che ne abbiamo già parlato per quanto riguarda gli F-35, torniamo alla politica interna. C'è una intervista sul Resto del Carlino a pagina 7 alla Bellanova. Fiducia a Conte, ma le differenze ci sono. La ministra di Italia Viva, gli 007, Renzi non è il problema, il premier lasci le deleghe. Questione di stile, sembra che qualcuno non perdoni Matteo di aver fatto nascere l'esecutivo. Italia Viva è un soggetto politico che esprime il nuovo. Voglio ricordare, avevamo proposto noi il taglio dei parlamentari, ma anche fra coloro che avevano detto sì in aula c'è chi si è schierato contro il referendum, e il carrozzo vuole il Copasir. Sapete bene che istituzione è, ed è un duello. Secondo voi con chi? Ovviamente con Fratelli d'Italia, perché fa gola, è come avere quel controllo. Vediamo altre notizie per quanto riguarda l'economia e come che ce ne sono, ma questa è un'economia di famiglia sulla stampa. È una cronaca in primo piano di cui spesso sentiamo parlare. Fatture false, i genitori di Renzi condannati a 1 anno e 9 mesi. Faremo appello, abbiamo fiducia nella giustizia, interdetti 6 mesi da incarichi societari. Tiziano Renzi e Laura Boboli, genitori di Matteo Renzi, ritratti a pagina 9 sulla stampa. Il padre dell'ex premier: il lavoro è stato regolarmente pagato e fatturato, dice. Intanto la memoria difensiva del padre dell'ex ministro in CDA: per la mia esperienza nel settore agricolo non vi è nessun conflitto di interesse. Come Crack Etruria, la versione di Boschi Senior, ho sempre agito per il bene della banca, quindi sempre agito con diligenza nel pieno rispetto di norme e criteri di corretta amministrazione. Assurda la fusione con Vicenza, e non solo con il senno di poi, ma anche con il senno di allora. Si difende così Papa Renzi. Sì, dice il Fatto Quotidiano: false fatture per l'outlet, 1 anno e 9 mesi ai Renzi. Quindi non era così illibati come diceva il figliolo, che diceva: ecco, la giustizia è fatta, il complotto. Firenze: i genitori dell'ex premier condannati per il misterioso studio di fattibilità per il mal di Reggello. 2 anni l'imprenditore D'Agostino. Dice Tiziano Renzi, il papà di Matteo: ho il dovere di credere nella giustizia italiana, continuo a farlo con grande amarezza, dimostrerò la mia innocenza. Mentre Punto Papa Renzi ha fiducia nella giustizia, tra un tribunale e l'altro l'incontro Lotti Savasta e gli altri guai giudiziari per la casata di Rignano. Rimane aperta l'inchiesta sulla bancarotta fraudolente e poi c'è Consip. Il De Agostino nel 2015 chiese a Tiziano Renzi un appuntamento con Luca Lotti, insomma il cerchio magico è sempre quello. Allora sottosegretario per il magistrato Antonio Savasta. Questo è quanto. Ma d'altra parte Papa Renzi è anche giustificato perché doveva fare queste cose non per la banca ma anche per la voracità dei figli. Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha? Lo prendi papà? Sì, la lepre in tuta rossa, che corse che fa? Lo prendi papà? Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua. Me lo prendi papà? Lo prendo se vuoi, così guarirà. Quel ghiro d'ormiglione spadiglia di già. Me lo prendi papà? Sì, quel topo campagnolo trasloca in città. Ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè, però ci si sta, sei forte papà, stringendosi un po', e questi poveri animali, ora che piove, non ho il coraggio di abbandonarli così. Che buchi che fa? Lo prendi papà? Sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa? Lo prendi papà? Sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè, però ci si sta, sei forte papà, stringendosi un po'. Sì, va bene. Ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè, però ci si sta, stringendosi un po'. E questa famiglione roulotte ha svuotato l'Amazzonia, anche perché l'Amazzonia è pluviale e piove spesso, quindi come fanno i poveri animali? Li prende papà. E questo, vabbè, dedicato a tutti papà. Ma vengo allora, per chiudere questa pagina ampia sul governo, al Sole 24 Ore. Sanità, dai nuovi ticket stangati in vista per i redditi medi. E qui c'è la truffa dei famosi redditi medi, cioè dei ceti medi, che accorpa sé da gente povera a gente ricca, in un unico blocco sociale immaginario. Il primo importante segnale del governo nella sanità sarà il superamento del super ticket, l'odiato balzello di 10 euro su visite e esami nato nel 2011. Una tassa fissa sulle ricette che vede oggi in Italia una complicata giungla regionale, tra chi lo applica integralmente, chi in base al valore della ricetta o dei redditi e chi non lo prevede affatto. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha promesso di la sua abolizione, anche se la partita vale 490 milioni. Hanno detto 400 milioni per le Olimpiadi, Io non voglio fare calcoli, ma insomma, no, ma lasciamo perdere queste bieche polemiche, andiamo avanti. Ma il suo addio è un'operazione fondamentale per il ministro per mettere in mano la partita più importante, quella della riforma dei ticket, da cui oggi lo Stato incassa 1,6 miliardi l'anno. Un riordino che passa attraverso un disegno di legge collegato alla manovra che prevede un'attuazione entro il marzo del 2020 e che punta a rimodulare gli sborsi dei cittadini in base al reddito. Che orrore, la progressività! È una cosa mostruosa. C'è chi più ha

e molti media mainstream rifiutano di dire questa è una bugia. Finché continueremo a farlo, staremo cedendo la nostra affidabilità, la nostra presunzione di onestà e le nostre regole professionali a coloro che vogliono diffondere bugie. Over to those who want to spread lies. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E Radio Città Fujiko all'ultimo internazionale, grazie ad Alessandro Canella. Cambiamo argomento, pagina 8 e pagina 9 del manifesto Green New Deal. Clima, il decreto più annunciato scompare e riappare. L'importo della riduzione dei sussidi dannosi sarà definito nella legge di bilancio prevista. La rottamazione delle auto Euro 3, nell'ultima bozza un fondo per la transizione ecologica delle imprese. Doveva arrivare a fine settembre, ma non c'erano le coperture, la mancanza di coordinamento tra i ministri coinvolti doveva bloccare. Poi era stato per certo il 3 ottobre scorso, ma anche allora non si è data la necessaria congiunzione tra gli astri. Le risorse e l'agenda del governo in vista della legge di bilancio dopo l'aggiornamento del DEF in dirittura di arrivo. Istat prosegue, fase di debolezza economica, la guerra dei dazi, Stati Uniti contro il resto del mondo, la Brexit, il rallentamento dell'economia tedesca, di quella cinese influenzano negativamente il commercio mondiale. L'andamento dell'economia italiana, sostiene Istat, nella nota mensile sull'andamento dell'economia pubblicata ieri. La revisione dei conti economici operata dal governo con l'aggiornamento del DEF ha lievemente modificato il PIL, che evidenzia un marginale incremento sia prima sia nel secondo trimestre, più 0,1%, sì, una cifra da veramente da bassissima. Tuttavia a luglio l'indice della produzione industriale ha registrato la seconda flessione congiunturale consecutiva. L'occupazione ad agosto era stabile e non sembra destinata ad aumentare, sembra essersi esaurita la fase di crescita sostenuta dall'occupazione a termine. Il volano del lavoro precario, le indicazioni a breve delineano la prosecuzione dell'attuale fase di calo. Intanto welfare a pezzi, altro che bonus, reddito di base per gli incapienti, anche questa un'altra argomentazione viene riportata nella pagina dedicata alla politica al lavoro del manifesto. Governo sindacati, confronto serrato ma poche risorse, via quattro tavoli per poi tornare a Palazzo Chigi, trovati 5,4 miliardi per il rinnovo degli statali, prima a settembre poi il 3 ottobre, ora sempre quasi pronto, la sostanza rinviata alla manovra. CGIL, CISL e UIL soddisfatte per le disponibilità di Conte, ma i 2,5 miliardi per il cuneo non sono insufficienti. Legge di bilancio in alto mare, Confindustria vede nero, Gualtieri promette un'intonazione espansiva, gli industriali temono crescita zero, come vi ho letto nella pagina precedente. Il governo ha i ferri corti su IVA, Renzi e coperture, sempre trovare i soldi. E parlando di ecologia, vediamola ancora una volta sulla vicenda dell'economia e anche sui problemi tra nazioni. Per esempio leggo dal Sole 24 Ore, scontro Italia e Spagna sulla pesca delle vongole. I pescatori andalusi contro la deroga di Bruxelles che ha concesso agli italiani. L'Adriatico è infatti l'unico posto in Europa dove si possono pescare vongole da 22 mm. Ma mi sposto in India. Le grandi città, le alluvioni, insomma il cambiamento climatico, la crisi delle cipolle, uno fa viene da piangere, no? Da piangere davvero. Modi in difficoltà, c'è il leader fascistoide del Vajai Party dell'India, Modi in difficoltà per lo scarso raccolto, il premier indiano blocca l'export, agricoltori in rivolta. Questo è le varie questioni. Nonostante questo però, mentre noi diciamo che la polizia cinese a Hong Kong arresta eccetera eccetera, leggo Londra, proteste clima, 135 arresti, non sono pochi. Sono 135, non 120, non F35, sono 135 gli attivisti ecoattivisti di Extinction Rebellion arrestati a Londra ieri, che si aggiungono alle decine di fermi in decine di città del mondo. L'epicentro delle manifestazioni che chiedono ai governi di agire subito contro il cambiamento climatico è stata la capitale britannica, luogo di nascita del movimento in cui i dimostranti hanno eretto un finto missile nucleare fuori dal palazzo del Ministero della Difesa, e quindi li hanno arrestati. Gli incaricati l'hanno arrestati. Vengo invece al Portogallo. Sappiamo che ha vinto il Partito Socialista, ma non ha la maggioranza, deve fare una coalizione. Quindi patto di sinistra, dice, e delle sinistre al plurale, dice Costa. Quindi ci sarebbe ancora, ai portoghesi è piaciuta la giriconga, cioè la cozzaglia, per questo il Partito Socialista cercherà di rinnovare questa soluzione politica con le due sinistre. Questo è il premier portoghese Costa, dopo la netta vittoria alle elezioni di domenica 36%, ha confermato l'intenzione di governare ancora con l'appoggio dei due partiti dell'estrema sinistra per un governo rafforzato e stabile, aggiunto appunto Costa stesso. Sì, io per quanto riguarda la cronaca e collegandomi anche a un'argomentazione importante prima di passare velocemente agli esteri, sono a pagina 13 della Stampa di Torino. Discariche abusive, roghi e minacce, il risico dei rifiuti da sud a nord, 11 arresti, business milionario, il sospetto è che la spazzatura fosse smaltita anche all'estero. E allora a questo punto preparo la pagina degli esteri, magari prendendola da Internazionale del Manifesto. Andiamo in Kosovo, sconfitti nel voto i signori della guerra, vincono Vatlistovie nazionalista e Lega Democratica con la candidata donna premier Vjosa Osmani. Lista serba al 90%, ora l'ex leader UGK Ardinai atteso all'AIA, Zaki è libero di ricattare. Dalla Tunisia ne abbiamo parlato ieri, affluenza bassa per i sondaggi e Nahad da 18%. Torna la tensione in Nagorno-Karabakh, scambio di accuse tra Baku e Yerevan, Putin tenta di mediare. Stiamo parlando dell'Armenia, quella fascia di paesi caucasici che sono esplosi dopo il discioglimento dell'Unione Sovietica e che hanno oligarchi al potere da sempre e una condizione di democrazia assolutamente labile. Mosca alleata dell'Armenia ma interessi irrinunciabili in Azerbaigian. Questo ha scatenato certamente, come in Cecenia, dei moti assolutamente imprevedibili e cruenti, dal Turkmenistan al Kirghizistan e tutti questi paesi, come vi ho detto, della fascia del Caucaso. Sognando il futuro nel Brasile, tra i ragazzi di Colonia Antonio Alexo, periferia di Manaus, che si ribellano alla paura, è una vita segnata da abusi e violenze. Questo in Brasile dal Bolsonaro, da pagina 16 e 17, interessante reportage a doppia pagina dal Manifesto. Cronaca locale, salto a piedi pari Carlino, perché i temi sono per quelli, no? Noi ostaggi spacciatori, piazzola pulita, eccetera. Insomma, poteva essere Carlino anche di 2 mesi fa, di 3 anni fa o di tra 2 settimane avanti. E invece il Corriere di Bologna, turismo, un tesoro da 11 milioni, vola la tassa che paga chi viene in città e i fondi extra usati per i comunali e i bagni pubblici. La cifra è quasi raddoppiata rispetto al budget del 2018, Conte ci aiuta la riscossione online. Conte non il ministro, Conte l'assessore. Nel frattempo c'è la querelle su Venturi, i medici fanno i burocrati, Venturi finisce sotto attacco, i sindacati chiedono le dimissioni dell'assessore. Questo è quello che arriva dal fronte della sanità, dal fronte del lavoro. La perla Mercatone d'ex Breda, questa volta Alessandro Testa dal Corriere di Bologna. Al Mise 48 ore di fuoco sulle crisi, spiragli per le sarti, trattative più incerte per le altre 2 aziende, regione in campo. Bologna Repubblica, già citati gli 11 milioni da Alfredo, soggiorno da favola, la tassa da 11 milioni alle casse comunali. Però passiamo a Renzi, che offre la sua lista, decida Bonaccini, l'ex premier, il prossimo voto in regione, pronto a darti una mano se ti serve. Chuck si gira, il film Diabolic, via Marconi chiude, quindi con Ginko e Vacante, gli altri personaggi di questo affascinante assassino, Diabolic. La polemica, 8 agosto una discarica, i tini contro gli ambulanti, già citati anche dal Resto del Carlino. Vediamo altre notizie andando così a vol d'uccello sulle pagine di Repubblica, ma direi che possiamo concludere e lanciare l'intervista. Abbiamo un'altra notizia invece che Alfredo tiene a dare. No, è quello che ci lega alla notizia, perché è il Cultura e Spettacolo del Corriere, con Piero Di Domenico, che ci dice Chuck si gira, gli anni che cantano. La storia del gruppo politico-musicale è un film presentato ieri in piazza, sono cominciate ieri in piazza Nettuno le riprese, questo docufilm di Filippo Vendemiati sul canzoniere delle Lame. Chi non ricorda il canzoniere delle Lame, mitico, la regia di Filippo Vendemiati, nel cast lo Stato Sociale e altre DB, dice sempre Piero Di Domenico, sul set le operaie della Perla. Quindi c'è da parlarne e per noi ne parla, e con questo chiudiamo la nostra segna stampa salutandovi il servizio di Sara Spimpolo, appunto, sul canzoniere delle Lame, il film a loro dedicato. Ciao a tutti. A me ha colpito, al di là della vicenda politica che è musicale, e a me ha colpito molto questo gruppo che è rimasto negli anni, perché anche se poi il gruppo si è sciolto nell'82, è rimasto un gruppo di amici vero e proprio. Ho guardato con molta invidia, devo dire, la loro unione, il loro fatto che da amici abbiano condiviso una battaglia politica e siano diventati e siano rimasti amici tuttora. Quindi è una storia di lotta ma anche di amicizia, ecco, e questa mi ha molto colpito come sono loro e come sono anche adesso nelle riprese che un po' si rivedono in quegli anni, insomma. A proposito di lotta, vediamo qui le lavoratrici della Perla che stanno lottando per il loro posto di lavoro, e nel docufilm che cosa faranno? Le lavoratrici della Perla ricordano molto quegli anni a 40 anni di distanza, l'unica differenza è che loro le canzoni non se le fanno comporre, ma sono loro stesse autrici e arrangiatrici dei loro pezzi, infatti tra un po' ne faranno uno anche per il film. E poi ci sarà anche lo Stato Sociale, verrà a fare delle riprese con voi prossimamente, giusto? Lo Stato Sociale, ci sono due gruppi in realtà, due gruppi odierni, le altre di B, che è Jack, che è l'autista del pulmino rosso su cui si muove il canzoniere delle Lame, e poi Albi, il bassista dello Stato Sociale. È un po' un modo per mettere a confronto due generazioni diverse, due modi diversi di intendere l'impegno musicale, perché anche lo Stato Sociale comunque fa dell'impegno una propria cifra, in modo diverso, ed è un modo anche per aprire un confronto ma anche un conflitto tra queste generazioni diverse, lontane, non lo so, vedremo, di musicisti. Cosa pensa che abbiano ancora da dire queste canzoni che venivano comunque cantate in un contesto sociopolitico molto diverso rispetto ad oggi? Non lo so che cosa abbiano da dire. A me personalmente mi mettono molta allegria, e spero che la trasmettano anche a chi poi andrà a vedere il film. Ecco, lei è Anna, lei è una delle fondatrici del canzoniere delle Lame. Ha aderito con entusiasmo a questo film. Prima l'abbiamo messa alla prova. Le ho detto, sì, mi ha messo la prova, come loro mettevano la prova a tutti i musicisti, perché tutti i musicisti che negli anni si sono uniti al loro gruppo venivano esaminati e c'era anche a volte un voto. Quindi io sono passato a maggioranza, ho detto a lei che non so come sarà il film, non assicuro niente, però assicuro che ci stiamo molto divertendo e ci divertiremo durante le riprese. Guarda, noi non volevamo fare gli ex combattenti reduci, questa era la nostra richiesta principale. Quello che ci interessava era raccontare un pezzo di storia contemporanea a dei ragazzi che non l'hanno vissuta e farlo attraverso la musica. Infatti Filippo ha trovato un interlocutore che è Jack degli altri DB, Albi dello Stato Sociale, con i quali parleremo cosa vuol dire fare musica, diciamo così, di impegno, perché oggi non è che si può parlare di musica politica oggi, e farla invece anni fa, che occasioni ci sono, che differenza c'è, che uguaglianza c'è, è ancora così bello suonare insieme avendo, diciamo, un'idea di etica in testa, essere utile a qualcosa? Probabilmente sì, ma parliamone, questo servirà, questo documentario. Ognuno ha la sua storia, noi adesso facciamo altri mestieri, altra vita, il nostro gruppo non esiste più fino dall'82, mentre quelli di B e Albi esistono ancora e fanno attività, fanno canzoni, ci raccontiamo, okay. Raccontiamo loro cosa fanno oggi, noi cosa abbiamo fatto.